Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Se poteva aiutava tutti, incrociava qualche gozzo di pescatori che con le reti magari quella notte non avevano preso nulla, gli allungava lui qualche pesce che lui aveva raccolto con le bombe. Mio nonno voga con maestria, in poco tempo siamo in mezzo al passo fra le due isole, quando sentiamo il rumore di un motore. Il nonno osserva la barca avvicinarsi e poi mi dice: è Squarciò. Storie di pescatori di Frodo e del primo panda arrivato sul suolo americano in una puntata che si intitola Bracconieri. Ma è colpo. È peggio che tirare a un uccello in volo. Bene, spara, prenderai. Ma certo, certo. Allora forza, vecchio, prova, tira un colpetto. Bottiglia si rompe, è male, molto male. In taiga, dove bottiglia trovo? Dai, lascia stare le chiacchiere, di la verità, che tanto non la prendi. Mia bottiglia non sparo. La corda sparo. Se bottiglia cade, adesso dai. La corda vuoi colpire? Su, provaci, la bottiglia è tua e te la riempio di vodka. Dai, marzacca! Questo è un estratto di un film di Akira Kurosawa, quindi tutti quei film sui generis bellissimi che gira Akira Kurosawa di qualche anno fa, è ambientato nella taiga russa e c'è, l'avete sentito, la voce di questo personaggio che parla, in questo caso un italiano un po' zoppicante, è appunto una figura, una sorta di cacciatore bracconiere che vive nella foresta sempre, si chiama Derso Uzala, o Derso Uzala, che a un certo punto incontra questi militari russi e lui continua a essere un bracconiere che vive nella taiga da solo e poi verrà portato in città quando avrà un abbassamento alla vista, ma in città ovviamente per lui sarà impossibile vivere. Vi abbiamo raccontato questo pezzo di film perché la puntata di oggi si intitola Bracconieri e non saremo nella taiga, saremo in due posti molto diversi. Andremo prima all'isola della Maddalena, nel meraviglioso arcipelago della Maddalena negli anni 50, dove un pescatore per sopravvivere e per far sopravvivere la sua famiglia usa un metodo poco ortodosso, cioè quello delle bombe che fanno risalire i cadaveri dei pesci che poi lui rivende a caro prezzo. E poi da lì andremo in Cina e la protagonista sarà invece una giovane stilista americana negli anni 30 che andrà in Cina per portarsi a casa, letteralmente a casa in America, il primo panda, il primo cucciolo di panda che metterà piede sul suolo americano. Un gruppetto di storie, la puntata si intitola Bracconieri. Benvenuti a Linee d'Ombra. Negli anni 50 frequento le scuole elementari a Milano e trascorro le vacanze estive in casa dei nonni materni alla Maddalena. Vivo così per 3 mesi all'anno a fianco a mio nonno, ufficiale di marina in pensione, che è stimato da tutti in paese per la sua rettitudine. Eppure mi sembra indulgente quando si parla di Squarciò, un pescatore di Frodo che usa le bombe e che la Guardia di Finanza non riesce a cogliere in flagrante. Squarciò è detestato dagli altri pescatori che si spaccano ogni giorno la schiena calando e salpando le reti. Il suo vero nome è Pasqualino. Squarciò è il soprannome e sta per spaccone, pronto com'è a ingigantire ogni sua impresa. È esuberante, è generoso, con moglie e 10 figli, non esita a prendere con sé una cognata con 3 bambini quando il marito è imbarcato su un mercantile. Un giorno le vecchie reti di famiglia si strappano per la violenza di una burrasca. A casa ci sono tante bocche da sfamare, mancano tempo e soldi per procurarsi una nuova attrezzatura. Squarciò decide di fare il bombardiere. In quegli anni è facile procurarsi mine e bombe inesplose. Si tratta di disinnescarle estraendo la spoletta, spesso bloccata dalla ruggine. Bisogna essere in 2 e prestare particolare attenzione. Uno tiene la parte superiore della bomba e l'altro, di fronte, dà colpi secchi di scalpello e mazza. Reso innocuo l'ordigno, si recupera l'esplosivo e lo si usa per fare i colpi, bombe artigianali da scagliare al centro di un branco di spigole o di orate. Vengono a galla a decine con la spina dorsale spezzata per il violento spostamento d'acqua dovuto all'esplosione. Si raccolgono grossi pesci in pochi minuti, più numerosi di quanti se ne impigliano in centinaia di metri di rete. era un omaccione, gioviale, simpatico, molto generoso, figura discussa ovviamente perché invidia da parte di qualcuno, perché alla fine se la cavava sempre. Era uno spaccone, come dice il nome, era di origine di Ponza, ma Maddalena, come ho detto all'inizio, era un arcipelago meticcio di gente lì venuta da tutta Italia, perché il mare era pescoso e l'isola era in una posizione strategica. Quindi arrivavano o qualche pastore dalla Corsica, perché non voleva pagare le tasse a Genova, perché la Corsica era occupata dai genovesi, o qualche pescatore da Ponza, da Napoli. È sempre stata così. Molti pescatori dell'isola detestano Squarciò per sentimenti diversi. C'è chi lo invidia per il benessere che ha raggiunto, c'è chi impreca perché oggi il mare è pescoso, ma domani chi lo sa. Le bombe uccidono anche i pesci più piccoli. Quante orate e spigole non diventeranno mai più grandi? Qualcuno non partecipa al malanimo generale. Dopo una giornata di pesca infruttuosa, ha incrociato il gozzo del pescatore di Frodo e si è visto regalare un paio di grossi dentici. Quando la motovedetta dei finanzieri abborda il gozzo di Squarciò, non trova tracce di esplosivo, mai, solo pesci che lui dice di aver preso con nasse e palamiti. Sono tanti, sì, è vero, oggi è stata una giornata fortunata, risponde. E il boato di mezz'ora fa? Sì, l'ho sentito anch'io, ma ero ad almeno un miglio di distanza. Squarciò è sfrontato perché sa che i finanzieri non hanno prove. Nasconde i residuati bellici in una grotta vicino a riva, in qualche isolotto frequentato solo da gabbiani e cormorani. Squarciò ha montato sul gozzo un motore potente e raggiunge per pescare anche la Corsica. Lavezzi è l'isolotto francese che si incontra per primo, disabitato, pieno di insenature e circondato da scogli di cui molti affiorano appena. Tane ideale per pesci di ogni dimensione. In una notte di luna piena appare la chiazza argentea di un branco di orate che nuota sotto costa. Il colpo è pronto. Viene lanciato in acqua, ma subito dopo si sente il rumore di un motore che si avvicina e ruggisce. Una motovedetta francese sbuca dal promontorio che la nascondeva. Il suo faro di prua illumina il gozzo, è questione di attimi. Si sente un perentorio «Alt!» provenire da un megafono e Squarciò risponde lanciando un altro colpo che esplode fra le due imbarcazioni e solleva un imponente fungo d'acqua. Il boato copre il rumore del motore del gozzo, spinto al massimo per la fuga. I gendarmi francesi sono colti di sorpresa. Poi sparano in aria a titolo intimidatorio, ma inutilmente. Si lanciano all'inseguimento di Squarciò, ma devono evitare le secche a fior d'acqua fra le quali il gozzo sembra danzare. In mare aperto la motovedetta può avere la meglio, ma subito è costretta a procedere zigzagando perché Squarciò lancia in acqua in sequenza i colpi che ha ancora a disposizione a bordo. Il limite delle acque territoriali è raggiunto fra boati e colonne d'acqua che si susseguono. Squarciò è al sicuro. È un giorno di settembre e io sono ancora in vacanza. Con una piccola barca a remi, mio nonno mi porta a Santo Stefano, l'isola di fronte alla Maddalena. L'acqua è così cristallina che si vedono nitidamente i pesci sul fondo. Ho la sensazione che la barca sia sospesa, tanto l'acqua è trasparente, e voli lentamente sulle rocce e sulle alghe laggiù, sotto di me. Giriamo di cala in cala per un'ora, poi ad un tratto si leva un vento leggero e il mare si increspa mentre spunta qualche nuvola bianca che risalta nell'azzurro del cielo. Sta per levarsi il maestrale, mi dice il nonno. È prudente tornare. Mio nonno voga con grande maestria. In poco tempo siamo in mezzo al passo fra le due isole, quando sentiamo il rumore di un motore. È Squarciò. Mio nonno ha riconosciuto il gozzo che si avvicina. Ci facciamo tirare fino in porto, mi dice. Mio nonno lascia i remi e in piedi, con una mano, tiene una cima per il traino e con l'altra fa ampi gesti e richiama il gozzo. Il gozzo però ci sfiora e procede oltre, senza rallentare. Al timone c'è un figlio di Squarciò che ogni tanto lascia il timone, corre a prua e si china per pochi attimi, poi torna a poppa e riprende la rotta. Penso ai discorsi che ho sentito tante volte sugli incidenti ai pescatori di Frodo. Chi c'era a prua? Un ferito. Quel gozzo è sempre uscito a pescare con 4 persone. E le altre dove sono? Sono certo che mio nonno si stia ponendo la stessa domanda. Il gozzo non va in porto, mi dice riprendendo a vogare, scuro in volto. Procede a tutta forza verso Levante. va verso l'ospedale militare. All'epoca quello è l'unico ospedale di La Maddalena, aperto anche alla popolazione. Questo gozzo procedeva a tutta forza, non ci ha ignorato totalmente, ci è passato pochissimi metri senza neanche rallentare. A che ho visto mio nonno scurirsi, anche perché si vedeva solo una sagoma a poppa alla barra del timone. C'era questo giovane che ogni tanto mollava il timone, correva a prua, si chinava. Poi abbiamo dedotto che probabilmente andava a vedere il fratello che perdeva sangue. A sera in paese non si parla d'altro. Squarciò e l'amico che l'aiutava nel disinnesco sono morti. La vecchia bomba su cui armeggiavano è esplosa. Forse lo scalpello è scivolato di un millimetro o forse il colpo della mazza è arrivato in anticipo. Ognuno dice la sua e per quanto possibile si ricostruiscono i fatti. Mentre la bomba scoppia, un figlio di Squarciò è a breve distanza e viene investito da una pioggia di schegge metalliche. L'altro è più in là, sul gozzo che ha la prua tirata sulla battigia. Un balzo giù sulla sabbia, una breve corsa dal fratello ferito, lo trascina sulla barca e parte in retromarcia. Squarciò sta morendo. Osserva il gozzo virare per prendere il largo e solleva un poco la mano. È l'ultimo cenno di saluto ai suoi figli. Il marinaio di guardia, con l'aiuto di due infermieri, trasferisce immediatamente il ferito dalla prua del gozzo alla sala operatoria. L'ospedale è lo stesso di 10 anni prima. I mezzi a disposizione riflettono la povertà del paese. Dopo un mese e diversi interventi, il figlio di Squarciò muore e chissà, forse raggiunge in cielo il padre e tutti i marinai uccisi dalle stesse bombe. La morte di Squarciò e di suo figlio per me è un trauma. I miei parenti hanno vissuto la guerra sul mare, qualcuno è morto e altri sono scampati. Da anni sento storie di combattimenti, di morti, di superstiti. Certamente si tratta di tragedie, ma sono anche imprese epiche che mi riempiono di ammirazione per i protagonisti, di cui sono figlio e nipote. Le racconto con orgoglio ai miei compagni durante l'anno scolastico e li vedo colpiti dagli eroi che animano le mie storie. Questa volta non si tratta di marinai morti in combattimento, ma di pescatori di frodo. Non c'è un siluro che squarcia la fiancata di una nave, ma una bomba che esplode per un disinnesco mancato. E soprattutto, chi è morto ha vissuto fino a ieri nella casa accanto alla mia. Sulla facciata, ancora oggi, c'è una targa di marmo con incisa la scritta «Casa Squarciò». Ammetto che per questa storia ho provato un trasporto personale perché sono molto affezionato a quei luoghi, conosco la Maddalena da un sacco di tempo, ho diversi amici e ci ho passato delle settimane bellissime sull'isola di Caprera e proprio nel paese della Maddalena. Nella mia memoria però non c'era la figura di Squarciò, quindi la storia di Walter è stata davvero precisa perché mi ha fatto scoprire l'ennesimo personaggio di quel posto, che già in sé è un posto particolare perché è un'isola di un'isola, come dice il mio amico Antonello Tovo che ci vive, e in più ogni tanto è disseminata qua e là di storie come queste. Pronto, ciao Walter, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Walter, tu non vivi a Maddalena, non hai mai vissuto in sostanza a Maddalena, no, giusto? No, ho vissuto i primi 6 anni di vita perché i miei genitori, la classica coppia mista, mio padre ex marina militare e mia madre una ragazza del posto, erano venuti a Milano, ma ce n'è tantissimi, erano venuti a Milano a cercare fortuna, come si dice, fortuna per modo di dire, ma diciamo che Milano era la città che offriva più lavoro e più possibilità di studio, mio padre c'era congedato ed era venuto qui, quindi i primi 6 anni mi hanno lasciato lì con i nonni, come adesso fanno i filippini con i propri figli, perché erano in 3 figli, io ero il più vivace, allora mi hanno lasciato coi nonni, 3 mesi all'anno lì. Walter, quindi e la poi... storia di Squarciò, cioè diciamo, quello che è accaduto tu l'hai vissuto, te lo ricordi? No, io l'ho vissuto perché quel giorno ero in barca con mio nonno, certo, con un racconto della storia, ma poi soprattutto vivendo lì 3 mesi e mezzo all'anno, quei miei nonni che facevano da genitori, io sapevo vita, morte e miracoli di tutto il paese, ho vissuto proprio l'humus che si respirava. Ma tu ci hai mai parlato con lui? L'hai mai abita in via Domenico Millerini al 4, io all'1. C'è ancora però una parte della famiglia, giusto? C'era un'ultima figlia che è morta l'anno scorso, l'ultima su 10, e quindi direi che adesso non c'è più nessuno. Senti, ma com'era vissuta sull'isola, in paese? Poi insomma la Maddalena è un posto magnifico, non è enorme, e il paesello diciamo è il nucleo di tutto. Com'era vissuta la figura di Squarciò in paese? Perché da una parte era, no, come dici nella storia, aiutava qualcuno male, ma il male un po' per un pizzico di invidia, perché in fondo lui aveva ottenuto, perché era anche abile, probabilmente sapeva meglio degli altri la zona dei banchi di pesci, lui aveva ottenuto un certo benessere, per cui il benessere genera un pizzico di invidia. Qualcun altro, non dico che fosse l'ecologista del tempo, ma si poneva il problema della distruzione dei pesci piccoli e quindi il mare si sarebbe impoverito via qualche anno. Certo. Però la maggioranza, la stragrande maggioranza, lo viveva o come un fatto dovuto, perché la povertà era tanta, e non era l'unico che pescava con le bombe. Lui lo faceva in grande stile ed era veramente abile, strapotente, arrogante, a volte coi finanzieri, ma... Era una pratica abbastanza comune, però. Ma certo, io mi ricordo, anche le bombe che scoppiavano la prima, per cui c'era, io mi ricordo qualcuno senza un occhio, senza un braccio, che vendeva i pesci al mercato perché non poteva più andare a pescare, li vendeva per un fratello o uno zio. Walter, quindi, tu che cosa hai fatto poi nella vita? Beh, ho studiato e poi ho fatto il fisico nucleare in un centro di ricerca a Ispra, all'Euratom di Ispra. Ah, certo. Poi mi sono ammalato di fegato, mi hanno fatto un trapianto, ho lasciato il lavoro e per 20 anni mi sono dedicato ad aprire case d'accoglienza per ragazzi abbandonati, ragazze madri, tossici, malati di AIDS, insomma una holding della sfiga. Ma quindi senti, come si passa da fare il ricercatore a gestire una holding da sfiga come quello? Prima di tutto, sembrerà paradossale, i principi dell'analisi matematica, ossia disaggregare un problema nei suoi singoli aspetti, sono gli stessi che si applicano nella vita, per cui se si è abituato a usare il cervello in un certo modo, lo usi in qualunque campo. Quindi è un'applicazione del metodo. Ah sì, io ho trovato, certo, un benefattore di una piccola realtà che, visto che ero libero sul mercato, fra virgolette, ha detto dai una mano a quella realtà lì, si chiama La Strada di Milano, e ci sono andato, una piccola realtà, da 15 persone, e nell'arco di 20 anni l'ho trasformata in un gruppo di una dozzina di cooperative e associazioni, con 200 dipendenti e 2.000-3.000 assistiti. Esiste ancora? È ancora attiva? Sì, esiste ancora, perché da qualche anno mi sono ritirato, fra virgolette. Mi sono ritirato perché ho avuto qualche tumore e altri piccoli inconvenienti, che comunque supero modo positivo. Insomma, vivi e lotti insieme a noi, mi sembra di sentire. Vai. Sì, ma benissimo. Sto benissimo. Fantastico. Fra un tumore e l'altro adesso scrivo, perché le convalescenze sono veramente una cosa impossibile, cioè, voglio dire, per uno abituato a lavorare a fare, sera al giorno. Certo, immagino. Per cui adesso tutti questi racconti li trasformerò in un libro che sarà editato da Itaca Edizioni a fine dell'anno. E allora Walter, quando hai voglia mandacene qualcuno, visto che raccontiamo storie di vita, mi sembra che ne hai da raccontare parecchie. Ti faccio i più grandi in bocca al lupo per tutto, Walter, grazie davvero. Grazie a te. A presto, buona giornata. Grazie. Arrivederci, buona giornata. Grazie a Valerio per la storia che ci ha raccontato. Vi ricordo che se volete anche voi contribuire al grande archivio di storie di Linee d'Ombra, le storie che hanno una linea di confine nel mezzo, anche se in questo caso è una linea d'acqua, potete farlo mandandocela a lineedombra@radio24.it, al nostro indirizzo email. Bastano un paio di pagine e noi ci facciamo un'intera puntata. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Ruth Harkness era una stilista, amante dei vizi, abituata alla mondanità sfrenata della New York degli anni 30. Ma dopo la morte del suo ricco marito nel 1936, Ruth decise di realizzare il suo sogno di una vita, che era quello di portare un panda negli Stati Uniti. Ruth però non era affatto un'esploratrice e quel viaggio all'avventura era un bizzarro progetto per una persona che non camminava nemmeno per un isolato se non cercava un taxi. Ma aveva soltanto 35 anni, aveva ereditato una piccola fortuna e decise di partire in direzione di Shanghai, da sola, per completare la sua missione. in una puntata che si intitola Bracconieri. La seconda storia di oggi è quella di Ruth Harkness. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Una volta in Cina, Ruth conobbe un giovane studente universitario cinese di nome Quentin Yang, che tempo prima aveva aiutato l'ex presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt, a trovare un panda per i suoi figli. Insieme a Quentin lasciarono Shanghai il 26 settembre del 36 su un piroscafo, diretti a Chengdu, nella provincia di Sichuan. Durante il suo viaggio, Ruth scrisse un resoconto giornaliero della sua esperienza alla sua più cara amica in America, Hazel Perkins, da lei soprannominata amichevolmente Perky. Scriveva così: «Cara Perky, siamo a 2 giorni fuori da Chengdu per la vera avventura. Nonostante i miei incredibili sforzi per limitare i bagagli, siamo partiti secondo lo stile di una vera carovana. Ci sono 16 portatori, 6 tende, 2 sedie, un cuoco, oltre a Quentin e a me. Strano a dirsi, ma le sedie sono le cose più assurde. Sono fatte come una macca di stecche di bambù, stese su 2 pali più lunghi, dove ci si siede nel mezzo. Una volta a Chengdu, la carovana continua a crescere fino a raggiungere il numero di 23 persone. Quentin guida una squadra di cacciatori ed esploratori in spedizione attraverso le aspre montagne degli altipiani tibetani. Ruth, in una lettera all'amica, scrive così: October 24th, 1936. Life is too entrancing. 24 ottobre 1936. Cara Perky, la vita è un incanto. Non sono affatto sicura che non sia tutto un sogno e che non possa svegliarmi. Non so se sarà umanamente possibile prendere un panda oppure no, ma sento che se lo sarà, io lo farò. Dopotutto, mia cara, non sono più di 3 gli uomini bianchi che ad oggi ne abbiano mai visto uno. E nessuno conosce le sue abitudini, né cosa mangi o qualsiasi altra cosa che lo riguardi. Spero di riuscire a prendere un cucciolo. Mi sono anche portata le tettarelle dei biberon e il latte in polvere per lui. Il gruppo viaggiò a piedi, arrivando fino a 50 km al giorno. Nonostante il suo passato mondano, Ruth Harkness si adattò sorprendentemente bene e nei mesi successivi lei e Quentin iniziarono una relazione. Dopo mesi di trekking, in novembre, il gruppo finalmente arrivò nelle foreste di bambù, dove decise di accamparsi. Quentin sentì da alcuni uomini parlare di panda nelle vicinanze e pochi giorni dopo trovò un piccolo cucciolo di panda di 9 settimane annidato nel cavo di un albero. «Avevo sentito un colpo proprio prima di trovare il cucciolo», scrive Quentin nel suo diario, «e il mio pensiero fu che qualcuno doveva aver ucciso la madre, ma non ero affatto sicuro. Quando glielo porsi, Ruth prese fra le braccia il cucciolo e lo cullò, allattandolo con un biberon. Battezzò la piccola panda col nome di Su Lin, lo stesso nome della moglie di mio fratello. Il nome significa qualcosa di prezioso. Ruth portò con sé Su Lin a Shanghai, dove fu inevitabilmente assediata dai giornalisti. Da là cercò di portare con sé il cucciolo a New York, ma fu bloccata dai funzionari della dogana che trattennero il panda al porto. Non volendo separarsi da Su Lin, Ruth lasciò che la nave salpasse senza di lei, rimanendo in dogana tutta la notte fino a quando l'animale non venne rilasciato. Riuscì a far uscire Su Lin dalla Cina, denunciandolo come fosse il suo cane. Viaggiarono fianco a fianco per tutta la rotta e all'arrivo divenne la prima persona a portare un panda gigante vivo negli Stati Uniti. Il circo mediatico seguì Ruth Harkness a New York, dove divenne un'attrazione per i media. Tutti volevano saperne di più sul primo panda gigante arrivato in Occidente. Questo è il villaggio segreto dei panda. Non mi sorprende che lo teniate segreto. Se vivessi qui, nemmeno io lo direi a qualcuno. Ora puoi dire wow. Wow! Tornata a New York, Ruth tornò alle sue abitudini mondane e presto le sue finanze presero a scarseggiare. Per garantire la propria sopravvivenza e quella di Sun Lee, non trovò di meglio da fare che offrire il panda al giardino zoologico Brockfield di Chicago in cambio di $14,000. Su Lin diventò così l'attrazione principale, attirando più visitatori di qualsiasi altro animale nella storia dello zoo. Un anno dopo, Ruth si recò di nuovo in Cina, determinata a portare un altro panda negli Stati Uniti per fare compagnia alla sua Sun Lee rimasta sola. e probabilmente per rimpinzare il proprio portafogli. Anche questa volta riuscì nell'impresa. Trovò May May, che riportò con sé e consegnò allo zoo di Chicago. Purtroppo la convivenza dei due panda non durò a lungo. Poco dopo, Sun Li morì di polmonite, seguita qualche anno più tardi da May May. Ruth fece allora un terzo giro in Cina, ma non riportò nessun altro panda dalla sua ultima spedizione. Tornò a New York, dove si perse in una vita piuttosto dissoluta. Ma se oggi il panda gigante è una delle specie più venerate e strettamente protette del pianeta, parte del merito è anche di Ruth Harkness. Once upon a time somebody ran away saying as fast as I can, I got to go, I got to go. Once upon a time we fell apart, you're holding in your hands the two halves of my heart. La storia di Ruth Harkness noi l'abbiamo letta su un sito della BBC, su un magazine della BBC. Se avete voglia di andare, cercate Ruth Harkness Panda, trovate sicuramente tutte le foto che la raffigurano, foto in bianco e nero con questo panda minuscolo bellissimo. Andate anche sui nostri social, su Linee d'Ombra, su Facebook, Linee d'Ombra Radio 24, o su Twitter, e Anita Panizza ha postato le foto di questa bellissima donna, giovane donna, con questo animale straordinario, che adesso per noi sembra... ci sembra di conoscerlo, anche se magari non l'abbiamo mai visto dal vivo, nemmeno in uno zoo, ma in quegli anni, negli anni 30, era veramente un animale rarissimo, quasi una divinità. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la storia seriale del nostro Antonio Cocco. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo. La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine. Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita. Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente... Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova. Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721. Il tema della puntata della nostra storia seriale di oggi, la storia di Antonio Cocco, il giovane uomo che parte da Venezia, scappa da Venezia e si infila in quel ginepraio che è per lui la legione straniera a metà degli anni 50, a metà del secolo scorso. Ecco, il tema dell'episodio di oggi è un tema molto delicato e davvero rappresenta una linea d'ombra spesso e volentieri nella vita delle persone. È il tema dell'orgoglio, perché Antonio in questa lettera che scrive al padre, come sempre, da Saida, dall'Algeria, dove si trova a fare l'addestramento all'interno della legione straniera e da dove vuole letteralmente scappare, ecco, dalle lettere che manda il padre, Antonio continua a ripetere questa frase, continua a dire è stata una stupidaggine quella che ho fatto, lui ha preso un brutto voto a scuola e ha litigato col professore e se n'è scappato, è scappato dalla classe, quindi avrebbe preso un voto in condotta pessimo. Quindi nel momento in cui lui valica quella linea d'ombra, cioè passa la soglia della classe scolastica, del liceo, esce da quella porta, non potrà più tornare indietro, o meglio nella sua testa non potrà mai più tornare indietro. E davvero il tema dell'orgoglio è un tema che torna nella vita delle persone. Io, anche solo facendo una piccola riflessione, potrei mettere in fila 2, 3, 4 episodi in cui, se non avessi preso la via che ho preso, quella appunto del lasciar passare le cose, del non preoccuparmici troppo, lasciarmele scorrere addosso, passarci sopra, come si suol dire, forse la mia vita avrebbe preso una piega diversa, in situazioni di grande tensione, a scuola, al lavoro, coi genitori, con la moglie o con il marito, no? Probabilmente, se vi fermate un secondo a riflettere, quelle linee d'ombra lì sono molto nette, perché sono momenti in cui dici: se fai una cosa, vai in una direzione, se ne fai un'altra, vai dalla parte diametralmente opposta. Non sono molti, ma ci sono questi momenti. Ebbene, l'episodio di oggi ci racconta esattamente quello. In questa lettera il giovane Cocco scrive al padre e cerca di spiegargli che cosa è accaduto. C'è sempre un un velo di scuse nella voce di Antonio. Ma in questa puntata lui, più che scusarsi, cerca di spiegare che cosa è successo quel giorno in cui ha deciso di prendere questa via. Lui è Antonio Cocco. Caro papà, cerca però di capire il mio stato d'animo quando ho visto che il sacrificio di un intero anno era andato a vuoto per una testardaggine del professore. Quando sono uscito da scuola, ero come in preda alla disperazione. Non avevo il coraggio di presentarmi a casa e dire che era andata male. Sapevo con quale ansia voi aspettavate il responso. E mi sentivo troppo colpevole. Colpevole di non avere fatto sempre il mio dovere. E avevo rimorso dell'inutile sacrificio fatto da te per darmi ripetizioni. Tutto questo è bastato per farmi prendere il treno e andarmene via, lontano, il più possibile. Mettere una pietra sul mio passato e provare ad incominciare a vivere libero una nuova vita e costruirla con le mie stesse mani. Naturalmente questa illusione durò ben poco. Mi sono ritrovato ben presto solo, senza un soldo in tasca, in mezzo a quella marea di confusione che è Milano. Diciamo che lui aveva un amico con un motorino e spesso andavano in giro a fare giretti così, motorino più che altro, ma grandi. Per credo che fossero giri molto più che altro, ma che tanto in giro non andasse, insomma, certamente non a Milano. Ma Gianluigi Cortese, il nipote di Tony, a questo punto mi mostra una fotografia di Tony col padre Luigi in vacanza. Lui era stato a Roma con il papà e aveva fatto delle foto, si erano fatti scattare da questa al giardino zoologico. Probabilmente ce ne sono anche delle altre di foto fatte a Roma. E questa era stata una vacanza? Che viaggio era questo? No, secondo me erano andati, mi verrebbe da dire, erano andati per il Papa, per le cose. Doveva essere in qualche modo legato al fatto che lui non aveva più tanta voglia di studiare cose, eccetera, che il padre l'avesse preso, ha detto andiamo a Roma. Per cui può darsi che magari in quel periodo fossero andati in viaggio a Roma assieme per cercare di stringere il rapporto. Immagino, suppongo quelli che possono, sicuramente avranno fatto un salto al Vaticano, in Piazza San Pietro e al Giardino Zoologico. Non sai quanto avrei desiderato fare un'inversione di marcia, ma uno stupido senso d'orgoglio mi ha tenuto fermo nella mia decisione. E non sapendo dove sbattere la testa, ho passato il confine e mi sono ingaggiato alla legione, sapendo sì e no che esisteva. Sapessi però come sono pentito e quanto è forte in me il desiderio di ritornare a casa e di avere qualcuno che mi conforta e a cui appellarmi quando ne ho maggior bisogno. Solo ora comprendo cosa voglia dire avere una mamma sempre pronta a soddisfare i tuoi capricci e un babbo come te. Purtroppo molte cose si capiscono solo quando è troppo tardi e non si dà ascolto ai consigli degli esperti se non quando si è provato a proprie spese quanto erano preziosi. E anch'io, per un folle colpo di testa, ho voluto fare esperienza della vita. E credimi che mi costa molto cara questa quanto mai inutile esperienza, anche perché spesso sono tormentato dall'asma, che mi rende più dura e più difficile la vita. Per fortuna qui l'aria non è affatto umida come temevo, altrimenti non credo che ce la farei. Non so, papà, cosa tu stia facendo a Venezia per un mio eventuale rimpatrio, sappi però che se tu lo speri, io lo desidero più di te. In attesa ad una tua risposta, abbraccio te e mamma. Un bacio, Antonio. Saida, 20 agosto 1952. Grazie ancora a Mauro Pescio, che è andato a Pieve Santo Stefano nel weekend del premio Pieve e ha incontrato la famiglia Cocco. Sentite che la voce è diversa da come era prima. Mauro ci aveva chiacchierato telefonicamente, qua invece si sente la voce viva, ad esempio, di Gianni, del fratello minore di Antonio. Grazie quindi a tutta la famiglia Cocco che ci permette di raccontare questa storia. Io vi ricordo che se avete voglia di partecipare a questo programma, mandateci le vostre storie, lineedombra@radio24.it. grazie di nuovo a Mauro, grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche, grazie a Paolo Corleoni che coordina tutta la parte di suono di questo programma, grazie a Anita Panizza, senza la quale questo programma non sarebbe fatto in questo modo. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.